E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma 101.9, la vostra frequenza di Bruxelles. State ascoltando la trasmissione I colori dell'anima che, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 dopo i nostri colleghi di Nous voulons savoir che salutiamo. Buonasera. E naturalmente, quindi noi rimarremo con voi fino alle 22. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla frequenza 101.9. E stasera c'è con me in studio, prima di tutto, Benedetta. Ciao, Benedetta. Ciao Rosana, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di entrare, diciamo così, nel vivo dell'argomento di oggi, che poi vi spiegheremo. Volevo anche presentare i nostri ospiti. Allora, Mark, buonasera. E Buonasera. Tony. Buonasera. Allora, Mark è belga, però parla perfettamente italiano. Perfettamente, forse un po' esagerato, Però, ma insomma, insomma. bene. E invece Tony è italiano, però è qui da molti anni. Da Sì, è vero. 25 anni. 25 anni, benissimo. Allora, con loro parleremo di un'associazione che si chiama Poverello, probabilmente ne avrete sentito parlare. È un'associazione che opera in Belgio da moltissimi anni, da oltre 30 anni, e volevo chiedere magari a Mark se vuole dirci brevemente, non la storia, ma insomma, perché comunque ne parleremo anche nel corso della trasmissione, ma quando è nato Poverello? 68, e penso che è nato per la prima volta da Jan Vermeer, un medico che lui ha fondato più o meno l'associazione a Bruxelles. E dopo ci sono anche altri nelle altre città, ma Bruxelles era stata la prima. Lui, ma questo può spiegare meglio il suo mio amico Tony. Ecco, Tony. Perché lui aveva un tipo di conversione religiosa, che lui era un medico sessuologico, se non mi sbaglio, che dopo ha avuto un tipo di conversione come a Paulus, e questo è stato un po' il motivo, è spinto di fare quel cambiamento nella sua vita, di fondare il Poverello. Infatti, volevo proprio chiedere a Tony come mai questo nome, come mai Poverello? Un nome Allora, italiano in un paese, diciamo. sì, Poverello è il nome che si era preso Francesco d'Assisi o che era stato dato a Francesco d'Assisi. E penso che quando l'istituzione ha voluto dare un nome, il fondatore ha pensato veramente a San Francesco d'Assisi. Poverello è anche un nome che mi aveva tenuto un po' lontano da questa istituzione, perché io come veneto do un'altra accezione a Poverello, non Francesco d'Assisi, ma un Poverello che Poverello è una persona che da noi è un po' meno dotata delle altre, un semplicione, un sempliciotto. Ora, ecco. E questo è il nome che Jan Vermeer, che è il fondatore, ha voluto dare a Poverello, perché lui era stato affascinato proprio da Francesco d'Assisi. E vorrei parlare un po' della sua conversione. Lui era un sessuologo. Aveva lavorato, credo, 20 anni per dare informazioni alle persone che erano poco a conoscenza del campo sessuologico, e lavorava veramente giorno e notte per questo. E cominciava il lavoro alle 8 e lo finiva alle 11 di sera, e poi assieme a sua moglie programmava il lavoro per il giorno successivo. Quindi una Finca vita molto intensa. molto intensa, e proprio dava animo e cuore per questo, finché a un certo momento ha preso un esaurimento che l'ha portato agli estremi della sua vita. È stato una settimana tra vita e morte. E così poi ha pensato di sospendere il suo lavoro e rifugiarsi nelle Ardenne, in una casa, in modo di prendere riposo e riabilitarsi. Una volta che si era riabilitato, ha riprovato a lavorare e è ricaduto nella stessa condizione. allora ha deciso definitivamente di rimanere là, nelle Ardenne. Se non che, mentre trascorreva la vita non felice, perché c'era qualche cosa che non andava in questo riposo, anche se aveva i beni per poterselo godere, stava alla ricerca di qualche cosa, finché arriva un prete che conosceva che lui era stato aveva lavorato nel campo psicologico e sessuologico e conosceva dei casi che gli sarebbero andati molto bene per aiutare delle persone. È andato a parlare con lui, non a parlare di spiritualità, non a parlare di cristianesimo, ma a parlare proprio di questi argomenti umani che lui sentiva che erano molto importanti approfondire. Se non che Yang rimane colpito da questa prete, da questa persona, per la sua onestà morale, per la sua autenticità. E lui, che aveva abbandonato le pratiche religiose, ha deciso di andare a conoscerlo meglio frequentando la sua liturgia, e alla domenica è andato alla messa. Quindi diciamo ha intrapreso un cammino spirituale che poi sappiamo... Non ha intrapreso niente, no, è andato solo per curiosità, perché per conoscere meglio quest'uomo. E durante la liturgia lui è stato colpito terribilmente, non sa neanche descrivere da che, se dalle parole, se dalla croce che quel prete ha mostrato. La sua vita è cambiata da un momento all'altro. Mark dice una conversione di San Paolo. San Paolo ha avuto questa grande folgore che l'ha buttato per terra, e lui è rimasto affascinato da Cristo. Soltanto da una croce che il prete aveva mostrato e parlava. E da quel momento è cambiata tutta la sua vita. Ha trovato senso alla sua vita, e così da quel momento è cominciato un cammino diverso. E Tony, tu da quanto tempo è che frequenti l'associazione Poverello? Allora, è poco, 4 mesi, però ho sempre lavorato, se vuoi, in questo campo. Quando ero a Roma avevamo una fraternità, e questa fraternità era aperta alle persone che erano più disagiate, giovani ma anche meno giovani, che non avevano, direi, ospitalità nella società. Ma vista la tua, diciamo, storia pregressa, cosa pensi che Poverello abbia dato in più magari alla tua vita? Allora, Poverello mi ha colpito veramente forte per la semplicità, ed evidentemente la semplicità di Assisi, che si respira là. Tu vai dentro, trovi questo gruppo di persone che sono, non sai più neanche distinguere se sono persone che sono là per essere aiutate o per aiutare, se sono volontari o se sono poverelli davvero. E si confonde veramente la situazione. Trovi dei poverelli che sembrano che donano aiuto, e trovi quelli che donano aiuto che sembrano poverelli. Non c'è una condivisione profonda della vita. Sì, della... sì, non c'è nessuna gerarchia al poverello, e questo mi ha fatto molto piacere, perché tu parli con il responsabile e il responsabile si sente dire meno capace di te. Proprio, non è una umiltà pelosa, è una umiltà vera, proprio, lo sente dal profondo del cuore. Dice, sono incapace, non riesco a fare questo. E lei è responsabile. E ha una grande responsabilità, perché deve mandare avanti un poverello in questa maniera. Non è facile. Bello, molto bello quello che ci ha raccontato. Adesso penso, Rosanna, forse possiamo così regalarci un momento musicale. Sì, allora, una canzone di una cantante che si chiama Elsa Lila e si intitola Il senso della vita. È una canzone che so che ti piace molto, Benedetta. Moltissimo. Però mi sembra anche così appropriata per l'argomento di cui stiamo parlando stasera. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 e ci troviamo fra pochissimo. Ed eccoci ritornati in studio nella trasmissione I colori dell'anima, trasmissione che questa sera è dedicata all'associazione Poverello. Allora, intanto, per chi vuole sapere di più di questa associazione, può andare e visitare il sito www.poverello.be, giusto Mark? Penso di sì, ma non sono molto brave su internet e tutte quelle cose. Ma a questo proposito, c'è qualcuno nell'associazione Poverello che si occupa specificatamente del sito, che lo cura, che lo aggiorna? Forse di sì, ma io non sono molto bravo. Tu non sei molto bravo, no. Comunque non ti preoccupare, perché tanto sì. Sia Benedetta che io l'abbiamo guardato un po' questo sito, e infatti le cose che abbiamo così scoperto le abbiamo viste proprio dal sito, e adesso grazie a voi Mark e Tony le stiamo scoprendo ancora più da vicino dalla vostra esperienza. Mark, tu ci puoi dire quante associazioni ci sono in Belgio, quanta gente rende servizio per Poverello? Penso che ci siamo in 14 città, da Ostende, Anversa, Gent, anche Leuven penso. Anche a Leuven, c'è anche Banneux, un posto abbastanza importante, di posto di pellegrinaggio. Mm-hmm. Dove c'è anche un posto dove si possono dormire alcune persone e si fanno accoglienza di gruppi. In totale ci sono molti volontari, penso. A Bruxelles penso un'ottantina di persone che lavorano a Bruxelles, ma è difficile di sapere perché ogni giorno c'è un'altra squadra, si può dire squadra. E io vengo 3 volte alla settimana e ci sono 10-15 persone, dunque in totale penso 80 persone, qualcosa del genere, ma è sempre gradito che ci sono delle nuove persone che vogliono lavorare da noi. Ecco. Per essere volontario non ci sono problemi, e anche italiani, così potrei parlare un po' più di italiano con loro, perché c'è il mio amico Tony, ma lui lavora il martedì e io lunedì e mercoledì, dunque non vedo molto spesso il mio amico Tony. Ci sono alcuni italiani, di origine italiana, che vengono da noi, alcuni, non mica tanto, ma siamo qui a Bruxelles, allora ci sono anche italiani con difficoltà, con un certo problemi, che vengono da noi. Ecco, se io volessi diventare volontario, dove devo venire a Bruxelles? Beh, sì. Dov'è la via, il posto, il luogo dove devo arrivare? Si chiama Rue de l'Economie, Zeunerheidstraat, numero 4, vicino alla AMET, in Bruxelles, nella dialetto di Bruxelles, Place de Jeuneval. Si presento, o forse è meglio di fare una chiamatina prima. Si vediamo, c'è sempre qualcosa. C'è sempre qualcosa da fare. Sì. Ecco, tu che cosa fai a Poverello? Sei barista. Ma anche un po' altra roba, perché da anni e anni ho fatto tantissimi anni del bar, che anche mi piace di fare un po' anche altro. Quanti anni? Ho iniziato in 88, quando ero soltanto 19 anni, dunque c'è molti anni, ma mi piace sempre, e mi piace sempre di andare. Non posso dire che mi ha mai dato fastidio, forse di quanto intanto, quando il sole è tanto bello che mi dice, ma forse mi piacerebbe di fare un giro in bicicletta, ma dai. No, mi piace sempre molto di andarsene, perché è diventato una seconda casa, un po' di famiglia, ci sono molti amici, e anche i colleghi sono davvero amici, perché una cosa molto positiva da noi, e come ha detto l'amico Tony, non è davvero un'ierarchia, siamo tutti volontari, dunque siamo colleghi, e non c'è gelosia, non c'è qualcuno che è pagato più che un altro, o qualcuno che deve fare un vuole diventare un capo di servizio, non esiste tutto quello, e come siamo volontari, quando non si piace si rimane a casa, non si deve venire. È meglio che c'è un po' di così, abitudine, che lo sanno che vengo lunedì, e penso che sia meglio che vengo più o meno ogni lunedì. Se un lunedì non va bene, fa un chiamattino e ti spiego, lunedì non posso venire, basta, non si deve fare spiegazioni di ogni tipo. Quindi un ambiente comunque tranquillo, sì, anche meglio, per i volontari. Sì. Di solito vengono una giornata alla settimana, è un po' fisso, con un po' di flessibilità, ma così lavoriamo insieme, la squadra di lunedì, la squadra di martedì. Io vengo 2 o 3 volte alla settimana, il pomeriggio, forse potrei venire di più, ma penso che devo rimanere un piacere, certo, di venire, e non un lavoro. Per me non è, non è il mio lavoro. Mi piace. Certo, se lo fai da così tanti anni, evidentemente c'è qualcosa di più. E lavorare non è lavorare, se vuoi. Si lavora, ma mi piace tanto di stare con la gente, di fare le chiacchierate, di sentire le loro storie. E con niente sono diventati più o meno amici. Certo, ci sono sempre persone che sono un po' più pesanti che altri, che mi piacciono più di parlare con loro, con altri. Ma penso che anche i baristi con un bar normale hanno una vita più difficile che la mia vita di barista. Perché la gente è abbastanza onesta, nel senso che sì, sono poveri, hanno un po' problemi, ma non devono fare finta, non devono fare il teatro, la bella figura, perché loro sono già a poverello. Allora, non ci sono più tanti problemi, di tanto in tanto si fa un po' discussioni, ma io preferisco di fare un po' discussioni accanto delle persone. E che fanno finto di essere tanto gentile, e infatti non lo sono. E così non è neanche tanto difficile per me di fare il bar. E non mi sento, come anche detto il Tony, non è perché ho lavorato da tanti anni che sono meglio o supero dei nostri ospiti, lasciamo dire, o clienti, o come si deve dire. Ecco, questa cosa mi ha molto colpito, no? Mark ha parlato di clienti. Volevo chiedere a Tony, infatti, com'è che in realtà gli ospiti o i clienti usufruiscono, diciamo, del servizio offerto da Poverello? Cioè, loro si presentano e così cosa ricevono, che tipo di aiuto ricevono? E mi hai raccontato anche prima una cosa molto interessante sul pagamento, in realtà, dei poverelli, no? Che a me sembrava abbastanza scioccante. Se ci puoi dire qualcosa di più. Allora, c'è una porta d'ingresso che non è per niente attraente, perché è una porta di ferro con un cerchio dove da fuori puoi vedere chi sta entrando. E là, direi, è anche, avviene una certa selezione. Perché le persone devono anche a un certo momento dare garanzia di essere aiutate. E vengono, ci sono, direi, non c'è un regolamento, ma c'è un'esperienza che ha insegnato a fare anche qualche selezione, perché se arriva uno che è sotto l'effetto della droga o sotto l'effetto dell'alcol, porta un grande disorientamento. E là ci sono persone che vanno per riposare, stanno con la testa china sul tavolo quasi tutto il tempo e non hanno altra possibilità di riposare che là. E se viene qualcuno che grida, che cerca di far baruffa con questo e con quello, è chiaro che non può coesistere con quelli che cercano la quiete. E allora c'è la... Ci sono delle persone, due, e nota bene, non sono volontari, sono persone aiutate che si sono rese disponibili a fare questo servizio. E non è tanto un servizio gratificante alle volte. Comunque entrano e poi hanno un piccolo percorso da fare e entrano subito nel refettorio, dove dalle 11:30 si comincia con la minestra e poi si finisce con il pranzo. Arrivano così scaglionati, non c'è un orario preciso. Dalle 11:30 fino alle 4 si dà da mangiare. Finalmente. Sì. Dicevi, come accolgono? Spesso sono molto sono gratificanti. Ti ringraziano per il servizio che fai. Ci sono anche delle eccezioni. Questo è chiaro, c'è chi dice, sono venuto qui, pago. Adesso parlo della paga. Ognuno è tenuto a dare un contributo per quello che riceve. La minestra costa per esempio 20 centesimi, come il caffè, come qualsiasi altra bevanda, costa 20 centesimi. Il pranzo completo costa un euro. E questo lo si fa per dare, direi, peso a quello che ricevono. Per responsabilizzare comunque anche le persone. Perché ne tengano conto e perché non lo disprezzino. Questa è la ragion veduta. C'è qualcuno che non c'è proprio da pagare, quel qualcuno che non c'è niente da pagare può mangiare previo il, direi, suo sforzo di andare alla portineria e chiedere un biglietto. Un biglietto che poi ha lo stesso valore dell'euro o dei 20 centesimi. E anche questo è richiesto proprio perché è uno sforzo che fa pesare quello che ricevono. Pesare è una brutta parola, però per dare valore, sì, a quello che ricevono. Ecco, dico, non so se sia esauriente la sì, la sì. Voilà. Sì, è un prezzo molto simbolico, un euro piuttosto un prezzo simbolico, che di solito si può. Però è importante, così come è importante anche, diciamo, la selezione, tra virgolette, perché anche quello fa parte di un atto di responsabilità anche degli ospiti e dei clienti. In certo senso un po' contro lo spirito della casa, ma come esempio sono barista, fra le 3 e le 5 molto spesso sono da solo. E quando si sono un po' anziani, 70 anni, 2 o 3, che hanno bevuto un po' di troppo e che fanno un po' casino, sono un po' in grado di controllare la cosa. Invece quando sono più giovani, 5 giovani di 22 anni che fanno un po' casino, che dovrei fare io? È difficile, un po' niente. Quindi tu vedi molti giovani? No, adesso abbiamo fatto un po' di politica di concentrarci piuttosto su anziani, su di oltre di 50 anni. Per quel motivo, in teoria, la casa è aperta per tutti. Ma ovviamente occorrono delle regole per poter continuare, sì, comunque l'attività. Ma troppi problemi, allora si deve chiamare la polizia, perché che posso fare da solo con il bar, con giovani che fanno casino, non si può più fare, e soprattutto gli anziani. Sono piuttosto per riposarsi, per mettersi nel giardino, per giocare le carte, perché c'è un bel giardino. Perché c'è un convento di cappuccini, anche per quello il nome di poverello, perché c'erano cappuccini di francescani, e il poverello occupa più o meno il vecchio convento, e per quello che c'è un bel giardino nel centro storico vicino alla piazza di Place Gilbert, e questo è molto bello. E così, per esempio, adesso nell'estate si possono mettere un po' nel sole su un banchetto sotto gli alberi nel centro storico, è molto gradito quella cosa. Ma allora noi magari possiamo invitare i nostri ascoltatori a diventare volontari anche di poverello, così forse si potrebbero anche, diciamo, risolvere magari alcuni problemi che ci sono adesso. E tutti sono sempre benvenuti di fare qualsiasi cosa. Io posso confermarlo questo, perché è stata la prima bella impressione che ho avuto. Il primo giorno che sono andato mi sono sentito accolto dai volontari in maniera veramente fraterna, non falsa, non pelosa, una carità pelosa, ma veramente fraterna. Si vede subito dall'occhio con che cuore ti accolgono. E così è continuato. Se io vado al poverello, vado per aiutare, ma vado anche per incontrare queste persone che sono piene di amore. Quindi per ricevere qualcosa alla fine. Sì, c'è anche un impegno, guarda, il poverello va avanti, è un miracolo che va avanti, 33 anni, senza una struttura vera e propria, perché si basa solo sul provvisorio, non riceve nessun sussidio, forse anche a ragion veduta, per essere più libero, per avere le mani più libere, ma vive così del provvisorio. Un giorno può essersi il mangiare e forse un altro giorno, ma non è mai successo questo. C'è sempre stato il mangiare sufficiente. E pagano un euro, si dice, beh, forse mangiano male. Non è vero, neanche questo, perché si mangia da lusso spesso. Ogni volta c'è il dolce, per dirne, c'è la minestra, c'è il pasto principale, c'è il dolce, qualche volta c'è ancora di più del dolce o gelato, perché ci sono sempre persone che donano. Che donano. E questo dura da 33 anni. Ripeto, è sconcertante, senza gerarchia. Cioè, tu vai là, poverello, e direi dal primo giorno puoi quasi tu scegliere il lavoro che fai, che vuoi fare. A me è stato proposto, come a Mark, di fare il barista, ma domani per esempio devo fare l'autista, andare con il pulmino a prendere della merce, di doni che la gente dà al poverello. E devo essere, e sento la bellezza di poter essere al servizio, di fare qualche cosa. Bene. Adesso così ci fermiamo ancora per un brano musicale, vero Rosanna? Vero, voi mi raccomando rimanete sintonizzati, ci ritroviamo fra pochissimi minuti sempre su Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima. E questo era Fabrizio De André a Radio Alma nella trasmissione I colori dell'anima che, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, questa sera insieme a Benedetta stiamo chiacchierando con Tony e Mark, due persone che offrono il loro servizio all'associazione Poverello che si trova qui in Belgio e che accoglie i poveri che vivono loro, diciamo, qui a Bruxelles, perché appunto operano a Bruxelles, ma in realtà è un'associazione che è presente in varie città del Belgio. Allora, Tony, di solito noi nella trasmissione I colori dell'anima associamo un colore alla trasmissione, all'argomento, e volevamo sapere quale colore ti piacerebbe associare a Poverello. Beh, pensandoci, penso che il colore viola sarebbe il colore più adatto al Poverello, e lo spiego anche perché. Perché chi va al Poverello è così, davanti, si trova davanti a una realtà veramente di povertà, di miseria. Sono persone che sono diventate vittime dell'ingiustizia sociale, alle volte anche per propria colpa, ma è una situazione di miseria. Il viola generalmente viene considerato un colore di lutto. Ma direi il viola è anche un colore, non è un nero. E da qui io trago anche una speranza, è la speranza di risorgere, di ritrovare una nuova vita. E infatti chi va al Poverello trova anche la gioia dell'accoglienza, dell'accoglienza di essere quello che sono, di sentirsi quello che sono, di essere accolti per quello che sono. E da qui viene anche la speranza che si può riprendere la vita, riprendere un futuro, dare un futuro alla propria vita. E qui è il colore. Il viola non è solo un colore di lutto, ma è, non è un nero, ma è un colore di speranza. Ci sono tanti fiori che sono viola e non per questo non sono brutti. Certo. Molto interessante come scelta. Sì, è una bella associazione, è anche una bella spiegazione. Allora, intanto ovviamente così immaginiamo che probabilmente i poverelli che vengono alla mensa di Poverello non ci stanno ascoltando, ma sicuramente ci stanno ascoltando delle persone che potenzialmente possono dare una mano a questa associazione. E quindi per saperne di più, come abbiamo già detto in precedenza ma lo ripetiamo, si può cominciare col guardare il sito web www.poverello.be, oppure dove tra l'altro si trova anche si trovano informazioni sul telefono, naturalmente anche su una guida telefonica. Ad ogni modo la sede a Bruxelles, se ce lo vuoi dire di nuovo Mark, dov'è? Rue de l'Economie numero 4 o Zuinigheidstraat numero 4. In quale comune? Mille Bruxelles, nel centro. Ah, nel centro, nel centro di vicino Bruxelles. Vicino alle Rue des Tanneurs e Rue Blas. D'accordo. Nel centro storico di Marolles, nel quartiere delle Marolles, vicino alla Place de Joyeux-Pal, molto centrale. Quindi il Poverello è una mensa, possiamo dire così? Ma è di più che una mensa, sì. Si può mangiare a Poverello, ma direi che molto di più. È un spazio, un cerchio dove si può riposare, incontrare persone, si può trovare un po' di tranquillità di mente, di pace, di parlare con la gente, e si può anche mangiare. E ci sono un trentina di persone che dormono da noi nel dormitorio, e per loro è davvero la loro vita, la loro casa, che si dormono, si mangiano la sera, perché ci sono due indirizzi, è il guida dell'economia, che è aperto durante la giornata, dove dalle 9 fino alle 5, e c'è anche un'altra casa, guida Tanner, dove ci sono una ventina di persone che davvero hanno un letto nel dormitorio. Purtroppo è sempre più o meno pieno, occupato, perché purtroppo ci sono molte più persone che vorrebbero avere un letto. Non è lussuoso, è un po' spartano, ma al minimo c'è un letto. Una cosa che mi colpisca abbastanza, che se si metterebbe 20 persone ben educate, borghesi, ricche, insieme in dormitorio, penso che si avrebbe molto più problemi che da noi, perché di sicuro ci sono un po' problemini e un po' tensioni fra le persone che vivono sempre nel stesso dormitorio. Ma mi colpisco che non ci sono neanche tanti tanti gravi problemi. Per esempio, io sono stato 3 settimane in ferie in Italia, negli ostelli della gioventù. Ho dormito 3 settimane, soltanto 3 settimane, come in ferie, in dormitorio. E dopo 3 settimane ero molto contento di ritrovare il mio letto e di dormire in pace. Ma loro vivono da anni in dormitori. Per 3 settimane si sta in ferie, va bene. Ma comunque riescono abbastanza bene di vivere insieme, che non è mica facile. Quindi il dormitorio è una struttura diversa da Poverello, è sì, giusto? No, è Poverello, ma è un altro edificio. Ho capito, quindi fa parte sempre di Poverello, sì. Quindi in questo senso, appunto, come dicevi tu prima, non è solo la mensa, sì, ma è anche un dormitorio. Ma per esempio ci sono anche persone, non so, tipo assistenti sociali che vengono qualche volta e magari, che ne so, aiutano persone che hanno più bisogno? Capita anche questo? Sì, nel senso che noi siamo un'organizzazione un po' da sé, abbastanza libera, indipendente, ma lavoriamo insieme con altri enti. Ci sono anche, come si chiamano, non so, i lavoratori dell'angolo di strada, forse si chiama così, Straatwerksters, sì, dai, lascia stare. Sono forse che aiutano... Stradini. È una parola un po' particolare. Ma che lavorano sulla strada, sì, nel senso che... Fanno lavoro, puliscono le strade, così. I cantonieri anche, si dice, dalle... No, penso che lui intenda qualcos'altro. Sì, un tipo di persone, mm-hmm, del CPAS o di altre organizzazioni, mm-hmm, che lavorano su quei barboni che vivono nella strada, e vengono... Quindi sono dei volontari, diciamo? No, che no, loro no, sono di professione. Ah, ecco. Sì. Quindi invece di stare nell'ufficio di CPAS, lavorano sulla strada. Ho capito. E quelli si vengono anche da noi, si mangiano qualcosa, si chiacchierano un po', e lavoriamo anche insieme con la CPAS, con altri enti, non ci sono problemi. Ma quello è la cosa più difficile del lavoro, di sapere, per esempio, i diritti. Forse hanno diritto a una pensione, senza saperne, perché molto mm-hmm spesso la gente non può neanche leggere né scrivere. E può essere difficile di trovarli, di sistemarli nella situazione. Allora, perché noi siamo volontari, è una cosa positiva e anche negativa, nel senso che siamo volontari. Ho studiato un po' l'università, ho alcune idee di diritti, so qualche cosa di questa roba, ma quando è troppo difficile dobbiamo rinviare le persone alle organizzazioni più adatte. Certo, perché possano aiutarli nella maniera più opportuna. Perché il senso di poverello è di avere un tipo di accoglienza, calda, senza troppe domande, senza sempre chiedere ma che hai fatto quel dossier, dove sei nato, tutta quella roba non si interessa. Io non chiedo mai qualcosa, che c'è qualcuno va al mio bar, si chiede un caffè, io do un caffè. E molto spesso alle prime settimane parliamo soltanto su cose banali, sul calcio, sul tempo, ma può capitare dopo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno che parlano dei loro problemi, anche familiari, molto spesso molto particolare, molto sensibile. Ma io non parlo mai, è molto dire, ma è un po' come il confessione, come un prete. I baristi, io sento delle storie, ma non è la mia roba di parlarne con altre persone, è un po' di fiducia che devono avere. E questo è il vantaggio di lavorare da tanto anni, da 20 anni, più di 20 anni, mi conoscono bene. Io conosco tutti che sono da noi, perché l'ho visto arrivare delle prime volte, dalla prima settimana, e così si vede un po' il cambiamento e si ti fanno confidenza. E può capitare che dura molto tempo, di tanto in tanto, soltanto una settimana, dopo settimane, e se loro vogliono parlare va bene, se no va bene anche va per bene me lo stesso. Va bene lo stesso. E così io non devo chiedere sempre che hai fatto, che sei sposato, come hai fatto. Forse anche spesso questo è il motivo per cui molte persone poi si ritrovano sulla strada, anche il peso delle responsabilità o delle pretese magari familiari o della società che comunque chiede, no? di avere sempre una certa posizione, di guadagnare, di avere una vita. Ma molto spesso hanno tutta una storia con le enti ufficiali, professionali, che vanno da sinistra a destra, molto spesso sono abbastanza stufa, basta, che si possono entrare senza sempre rispondere alle stesse domande. Senza chiedere il passaporto, senza chiedere che sei venuto a fare qui. Noi non chiediamo niente, ma quando qualcuno viene da noi e che ha bisogno di venire da noi, io non chiedo niente, si chiedono un caffè, io da volentieri, da un caffè chiedo 20 centesimi perché è un prezzo simbolico, dai. E quando non hanno neanche 20 centesimi si può fare che comunque, non, perché il caffè non è la cosa principale. Certo, si può bere un caffè, si può bere qualcosa da bere, ma quello non è la cosa principale. La cosa è l'accoglienza che si può mettere da noi, siamo abbastanza tranquilli, sicuro, si può parlare con qualcuno. Questo è molto più importante. Certo. E dopo un po' di tempo si può vedere la difficoltà. Forse c'è qualcosa di mentale, di con i diritti di pensione. Dopo proviamo di aiutare o di rinviare altre associazioni che sono più adatti, preparati a questa cosa. Bene, io adesso mi fermo con le domande, visto che voi non fate mai domande, anche io mi fermo per qualche minuto, così Rosanna ci propone qualcosa. Allora, ancora. Adesso una canzone di una cantante che si chiama Mariangela, il titolo della canzone è Ninna Nanna, mi raccomando, rimanete ancora con noi con I colori dell'anima. E allora ritorniamo con voi, cari ascoltatori, ancora continuiamo a parlare per qualche minuto dell'associazione Poverello insieme ai nostri amici Mark e Tony, un fiammingo, posso chiamarti così, e un italiano fiamminghizzato. E non so, magari possiamo ancora ripetere qualche informazione. Allora, abbiamo utile. Detto che per chi ci ascolta e quindi fosse interessato a diciamo offrire il proprio servizio, ci sono varie attività che si possono fare a Poverello. Quindi abbiamo qui Mark e Tony che sono baristi, però si può anche cucinare, vero? Sì. Si può anche cucinare. Si può servire ai tavoli? Sì, senz'altro. Si può andare a ritirare la merce, perché voi in realtà Poverello vive sugli alimenti che sono regalati da vari enti, giusto? Esatto. Ecco, tu hai detto infatti, Tony, che domani andrai a cercare proprio a prendere degli alimenti. Sì. E devi anche fare un certo viaggio in macchina. Devo fare un certo viaggio, sì, devo andare a Lierbeck. Sì, quindi sono vari gli enti però che danno sono, da mangiare. Sono molti, cioè dall'esperienza che ho io, una volta si va in un posto, un'altra volta si va in un altro posto. Tutti quanti quando hanno della merce che dicono vabbè questa potrebbe andare bene a Poverello, e telefono al poverello, hanno l'indirizzo e il poverello provvede ad andarla a prendere. E allora noi dobbiamo anche essere disponibili a fare gli autisti, partire con il pulmino e andare al luogo indicato, prendere la merce e riportarla al poverello. Quindi volontari con patente, mi raccomando, sì, era la andate prima... tutti al poverello. Perché la patente io non ce l'ho. Ecco, così potete sopperire alle mancanze di Mark. Benissimo. Che mi sembrano poche comunque, ma non fa mai male, insomma. No, e poi ci sono anche le altre attività, avendo il dormitorio, quindi ci saranno anche delle persone che, per non so, fanno i letti, puliscono le stanze, quindi ci sono lavori proprio di tutti i tipi. E poi prima della trasmissione voi raccontavate, ci parlavate di una suora che gestisce tutta la cucina, è vero? Come si chiama questa suora? Suor Beatrice. Beatrice, quindi sì. È lei il capo della cucina? Sì. Lei è il capo della cucina e anche il capo del magazzino dove viene immagazzinata tutta la merce che viene donata, e lei sa tutto dove si trova e conosce anche le date di scadenza e tutto quanto. Incredibile. E ha 77 anni. Ecco, quindi è almeno una... se ho capito bene, ma ce li ha. È molto brava, perché è molto difficile, nel senso che ogni giorno ci sono altre persone che lavorano nella cucina. Quindi lei gestisce anche, diciamo, organizza il lavoro in modo che tutti i volontari abbiano... diciamo la loro postazione, esatto, in quel momento. Se c'è qualcosa di nuovo, tu ricevi un telefono la sera prima e dice Tony, puoi fare questo domani? Se sono disponibile lo faccio volentieri. Lo faccio anche per piacere alla suora, perché sono veramente stupito da come questa donna di una certa età ha capacità organizzativa di questo genere. Beh, mi viene da dire che l'amore fa miracoli, sì, in questo caso. Penso di sì. Penso che maniera particolare. E la respiro l'amore di queste persone, veramente. Tant'è vero che qualche volta mi è successo di chiamarla zia. È bello. Molto bello. E volevo ritornare, visto che siamo proprio alla fine della trasmissione, all'inizio abbiamo detto che Poverello ha un fondatore, e tu, Mark, l'hai incrociato qualche volta. Sì, l'ho conosciuto per molti anni, ma è molto particolare. Ho parlato molto. Possiamo molto ricordare come si chiama questo? Jan Vermeer. Jan Vermeer. È deceduto in 98. Sì, 98. E io ho iniziato di lavorare 88, dunque l'ho conosciuto per 10 anni. Ma lui era sempre impegnato di ricevere le persone. Lui, tutti chiedevano tutte le domande, anche personale, per tutta la roba. E io l'avevo sempre lasciato in pace, dite, il poverino, no, non è poverino, il poverello, lui è sempre preoccupato con tante domande, non devo imbarazzarlo con le mie robe. Sì, ho sempre salutato, un uomo molto caloroso, e non, sì, lui era religioso. Ha fatto un tipo di conversione, ma uno spirito molto aperto, non era rigido, non era freddo, una persona molto, con molto calore, molto umorismo, abbastanza. Non devi avere l'impressione che c'è una casa da noi tanto, tanto rigido, con uno spirito ipercattolico, non è il caso, tutti sono benvenuti. Non si chiede qualcosa, tutti possono vedere, perché io personalmente non sono neanche tanto credente, ma non c'è un problema, io non ho problemi che fanno la messa o che sono credenti o religiosi, per me va benissimo, e penso che non è neanche tanto rilevante, perché stiamo facendo tutta la stessa cosa. Certo. Abbiamo più o meno lo stesso spirito, lavoriamo insieme e quello è il più importante. Sei credente o non sei credente, vai alla messa o non vai alla messa, non è la mia roba. Sì, lo spirito è fondato di Jan Vermeer, e lo spirito è un po' francescano, ma non devi credere a tutte le la metafisica che di Dio e tutto, non è quella la cosa più importante. La cosa è che sei accogliente. Lo spirito cristiano dell'accoglienza, mm-hmm. che però è condivisibile comunque da tutti. Sì. Quindi. Allora, siamo veramente arrivati alla fine. Io vorrei ringraziare Mark, anche di aver fatto lo sforzo di raccontarci la tua storia in italiano. Perché di solito parlo meglio italiano, penso. No. Ma adesso è un po' la situazione, mi rende un po' nervoso con quel microfono, ciuffe, mi fa un po'. Grazie mille, Mark, della tua testimonianza. Grazie ovviamente anche a Tony, grazie di essere venuto. È un piacere e spero di aver fatto un servizio al poverello, perché questa era la mia preoccupazione. Certo. Sicuramente, domani tutti chiamiamo, tutti a chiamare il poverello. Bene. E ovviamente grazie a te, a Benedetta. Grazie Rosanna a te, grazie ai nostri ospiti. Buonasera da me Rosanna e mi raccomando, ritornate ancora sulle nostre onde lunedì prossimo alle 21 con la trasmissione I colori dell'anima. Buonasera. Buonasera.